frequenza per adesso è bassa, non so quanto sia, credo che non sia molto alta. Dimmi se senti rumori di fondo, guarda, non lascia la portante, metti orecchio, ecco qua, dimmi se senti qualsiasi rumore, vi allontano dall'alimentatore. Hai sentito rumori? Assolutamente no, io non sento nessun rumore, non sento assolutamente niente, proprio perfetto, tutto ok. Adesso metto 100 watt, Claudio, 100 watt, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, guarda se senti rumori sotto la modulazione, prova, soffi, raschi, qualsiasi cosa, vedi un po', 1, 2, 3. Sento un rumore tipo alternata, una cosa del genere, non so se c'è anche Antonello, se te lo può confermare. Guarda adesso, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sento qualcosa nell'aria, che però non, ti ripeto, non so che cosa sia, che rumore sia, non lo so. A me mi ascolti bene? Benissimo. Comunque dimmi se questo leggera alternata influisce sulla modulazione mia. Dimmi se la copre, se è invadente, diciamo, dai. Allora, proviamo un attimino di nuovo, prova. Ecco qua, sto parlando sempre con 857. No, questo perché da quando ho cambiato il microfono, da quando ho modificato il microfono, sembra che sia apparso questa cosetta là. Ci vorrebbe un microfono originale per provare tutto originale, capito? Kappa, kappa. Che segnale ho io in banda laterale? Qua è 9++ che potrebbe corrispondere a 9,30, 9,40, forse anche di più. Il 9++ comincia dai 9,20, dai 9,30 in su, dai. Aggiungavido. Va bene. Ula. Ok, Antonello Motopompa, ci sei? Antonello arriva sia alla Landrica, con quel baracchino, ma alla tre non va. Aspetta che sento odore di bruciato, passate in M.